Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, ultima puntata della settimana. Ben ritrovati a tutti da Deborah Rosciani. L'INPS ha certificato che nei primi 9 mesi dello scorso anno c'è stato un aumento del 250% delle pratiche di riscatto della laurea. Ma a che cosa serve questa operazione? Serve a cominciare ad accumulare quella contribuzione che sarà necessario far valere quando sarà arrivato il momento della pensione. Come mai le richieste di riscatto sono aumentate così tanto? Perché la legge 247 del 2007, la legge di riforma delle pensioni, ha disciplinato in modo diverso il riscatto degli anni di università, rendendolo anche dal punto di vista economico più vantaggioso, oltre al fatto che è stata introdotta la possibilità di riscattare la laurea anche se non si è ancora iniziato il percorso lavorativo. E allora, come si fa? Quanto costa? Quali le procedure da seguire? E quando anche dipende farlo? Sono tutte domande che stamattina gireremo ai nostri ospiti, naturalmente come sempre invitandovi a telefonare, ad intervenire in diretta all'800240024 oppure a scriverci alle 349-238-6666. Buongiorno, anzi ciao, a Maria Carla De Cesari, collega di Norme e Tributi del Sole 24 Buongiorno. Ore. E a Sergio D'Onofrio, docente di legislazione sociale presso la LUMSA di Roma ed esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore, tra l'altro tra i curatori di un inserto che a questo tema è uscito, appunto è stato dedicato ed è uscito con il Sole 24 Ore di lunedì, un tema di approfondimento dell'esperto risponde: il riscatto della laurea vince inconvenienza. D'Onofrio, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Un'occhiata alla borsa prima di entrare nel dettaglio, nel merito di questo argomento. La borsa oggi è negativa, fino a qualche minuto fa le cose andavano anche un po' peggio di quello che vedo adesso. Comunque c'è un calo molto più abbondante di un punto percentuale ovunque, anzi Londra sta perdendo l'1,79%, Francoforte perdeva più di 2 punti, adesso è meno 1,7%, Parigi meno 1,16%, Milano sta perdendo 1,5 punti. Riflettori puntati sulle decisioni che si sta accingendo a prendere il presidente americano Obama, sempre per affrontare la crisi economica. Aumenteremo le tasse alle classi benestanti, ha detto, e alle imprese. Su questa prospettiva, indicata ieri nel tardo pomeriggio, anche Wall Street ha chiuso piuttosto male. In Europa invece è ancora turbolenta la situazione sui titoli del comparto finanziario. Milano perde l'1,59% sull'S&P MIB per le vendite che da stamattina si sono letteralmente scatenate su Enel. Il titolo è partito con un ribasso di 8,5 punti. Adesso comunque perde il 7,5% a 3,93 euro. Pare che sia pronto un aumento di capitale per rafforzare appunto il capitale da 5-7 miliardi di euro. Queste sono le cifre che circolano fra gli operatori, indicate anche stamattina dalle Sole 24 Ore. Una decisione che potrebbe essere presa nel prossimo consiglio di amministrazione del gruppo, ma quando insomma si fa ricorso al mercato per un importo anche così importante, è chiaro che poi la borsa boccia. Il gruppo non ha smentito, ha detto solo che questa è un'ipotesi al vaglio in questo momento della società, ma non c'è stata appunto una smentita radicale. Ci sono tanti altri titoli che perdono piuttosto abbondantemente terreno. Stamattina Prismian meno 5,29, Fondiaria meno 4,35, Finmeccanica meno 2,70, Luxottica che stamattina non risente bene neanche del recupero del dollaro, meno 2,65%, STM meno 2,35, L'Espresso meno 2, Generali meno 2. Segno più invece su Impregilo che sta guadagnando il 2,61%, sempre quotazioni sostenute dalle attese di rilancio delle grandi opere infrastrutturali, fra cui il ponte sullo stretto di Messina. Poi abbiamo un rialzo di quasi 2 punti su Parmalat. Il settore bancario un po' contrastato stamattina: Unicredit partita di nuovo piuttosto male, ha recuperato tutto, adesso è anche positiva, più 0,7% a 1,023 euro. Quando si mantiene sopra l'euro, raccontiamolo, così rassicuriamo i piccoli azionisti. Mondadori più 0,6%, Unipol più 0,4%. Rapporto euro-dollaro a 1,2675. Il petrolio è tornato abbondantemente sopra i $40, fra i 44 e i 46 tra New York e Londra. Questo è il quadro di mercato, però noi andiamo subito al tema di questa mattina di Salva Danaio: tutte le novità del riscatto della laurea. Il riscatto della laurea permette di anticipare il momento della pensione, consentendo di coprire con i contributi il periodo del corso legale di laurea, esclusi cioè gli anni fuori corso. Il riscatto può essere fatto da lavoratori dipendenti, autonomi, lavoratori iscritti ai fondi speciali di previdenza oppure soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ma è conveniente chiedere il riscatto al più presto perché, più si avvicina l'età del pensionamento, maggiore sarà la somma da pagare per il riscatto. Per chi non è ancora occupato, il costo del riscatto è di 4.700 euro per ogni anno di università. Le somme versate confluiranno in un apposito fondo e potranno essere poi trasferite alla gestione in cui i giovani saranno assicurati una volta iniziata l'attività. Tra i vantaggi dell'operazione, la possibilità di rateizzare il pagamento in 120 rate e i benefici fiscali riservati anche al familiare di cui il giovane risulta a carico. Inoltre, nel sistema contributivo, l'intero importo del riscatto capitalizza dal momento della domanda e non mano a mano che si versano le singole rate. Piccola pillola oggi dedicata al riscatto della laurea. Tra l'altro, noi vorremmo focalizzare la nostra trasmissione su questo, ma se avete delle domande anche su come totalizzare i periodi contributivi, noi questa mattina vi metteremo i nostri ospiti a disposizione anche per rispondere su questo argomento. E allora 800 24 00 24, il numero verde per gli interventi in diretta, il 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi. Io comincerei subito con un messaggio di Davide che ci dice: ho presentato la domanda di riscatto da oltre un anno e mezzo, nessuna risposta. Come faccio per sapere qualcosa? Donofrio, comincio subito con lei. Nostro interlocutore è l'INPS per questa pratica. Se non è arrivata nessuna risposta, significa che l'INPS non l'ha accettata? No, assolutamente. Chiaramente la situazione può essere diversa sul territorio nazionale, nel senso che ci possono essere delle sedi che magari hanno un maggior numero, un maggior carico di domande e altre invece che sono più sollecite perché appunto possono, diciamo, rispondere in tempi più brevi a questo tipo di richiesta. Quindi il nostro ascoltatore deve avere un po' di pazienza e al tempo stesso anche sollecitare gli uffici, appunto, ecco, per conoscere. Ecco, comunque, diciamo, se questo, diciamo, può essere di conforto, il ritardo non lo penalizza, nel senso che il costo è comunque cristallizzato al momento della domanda. Cosa vuol dire cristallizzato al momento della domanda? Nel senso che viene calcolato nel momento in cui viene fatta la domanda, quindi nel caso in cui appunto fa fede insomma la data in cui formalmente Davide ha presentato la sua domanda. Con la retribuzione, con gli altri elementi, età eccetera, questo sempre nel caso in cui non si tratti di un non occupato per il quale, come diceva giustamente la scheda, c'è un costo fisso che nel 2009 è di 4.700 euro per ogni anno di riscatto. Entreremo senz'altro adesso più dettagliatamente negli aspetti economici di questa operazione, però Maria Carla De Cesari, perché nel 2008 c'è stato il boom delle richieste di riscatto? Vogliamo ritornare su questo punto? Sì, il governo ha, con la legge 247 del 2007, ha cercato di dare un incentivo in più per coloro, per i laureati che vogliono riscattare la laurea. L'incentivo è di natura fiscale, questo è molto importante, e poi anche di natura di diluizione dell'onere nel corso del tempo. Ricordiamo che appunto con la legge 247 l'onere del riscatto di laurea può essere pagato in fino a 120 rate senza interessi, quindi questo è molto importante, e per le persone inoccupate si dà per la prima volta la possibilità di riscattare gli anni per coloro che non hanno ancora, diciamo, un contributo accreditato presso le varie gestioni previdenziali con un onere fisso, lo ricordava Donofrio, e tra l'altro questo onere fisso può essere in qualche modo portato in detrazione dai genitori. Mm-hmm. Quindi, come dire, è un vantaggio fiscale molto, molto rilevante. Quindi, insomma, i vantaggi economici dell'operazione, che comunque dal punto di vista finanziario non è proprio esattamente una passeggiata, sono aumentati questo apertato. Certo, però come dire, il fatto che si ponga l'attenzione a riscattare gli anni di università fin dall'inizio, quindi subito dopo la laurea, questo è sicuramente rappresenta sicuramente un grande vantaggio. Prima di tutto perché come dire, le retribuzioni di solito, se appunto ci si trova in condizioni lavorative, sono di solito inferiori, perché appunto, come dire, si parte dal basso e poi si segue segue la progressione di carriera. Mm-hmm. D'altro lato, per gli inoccupati c'è questo onere che è fisso, ma che comunque consente di iniziare ad avere un tesoretto previdenziale che alla fine, come dire, renderà sia dal punto di vista degli anni di anzianità contributiva, sia dal punto di vista della misura dell'assegno. Tra l'altro possiamo anche ricordare D'Onofrio, ma vedo già molti ascoltatori pronti ad intervenire con le loro domande, li accontentiamo in tempi rapidissimi. Volevo semplicemente ricordare anche che il riscatto è possibile farlo parzialmente. Questo per quale motivo? Perché tutta l'operazione comunque economicamente piuttosto impegnativa da sostenere, quindi si dà il modo anche di poter fare riscatto in maniera parziale anche per questo motivo? Sì, certamente, per dilazionare. Però c'è un'altra considerazione da fare, che il riscatto parziale è un qualcosa che interessa soprattutto coloro che sono vicini al momento della pensione. Ah, ecco. Allora è inutile farsi carico dell'intero costo se magari per raggiungere i fatidici 35 anni magari basta soltanto un anno, mentre per i giovani o comunque diciamo per la fascia sotto i 50 anni in genere il riscatto viene chiesto per l'intero corso legale di laurea, perché appunto, come diceva anche la De Cesari, bisogna capitalizzare al massimo sull'anzianità assicurativa per poi avere la pensione congrua o quando è possibile anche averla prima del tempo. Infatti, allora, a proposito del momento anagrafico in cui è più conveniente fare questa operazione, cominciamo subito con un giovanissimo all'800240024, Stefano dalla provincia di Lucca, buongiorno. È un giovanissimo, no? Perché ho letto anni fa, ha frequentato l'università. Avevo letto male la domanda, infatti, vabbè, cosa ci vuole fare? Sono un po' ubriaca di prima mattina. Sono contenta di averla resa così allegra, però. Grazie mille. No, diciamo che addirittura è un po' l'inverso. Cioè, io sono piuttosto anziano. Perché quindi è il caso durante che stava facendo D'Onofrio poco fa, praticamente. Lei interessa fare un riscatto parziale perché vorrebbe accelerare i tempi della pensione. Sì, ma diciamo, al di là della convenienza economica, era proprio sul punto. Allora, perché le spiego, io ho frequentato l'università chiaramente molti anni fa e arrivai praticamente alle soglie della tesi, poi per ragioni 100.000 non discussi la tesi. In un momento di senescenza, di rimbecillimento senile di ritorno insomma alla lucidità, sì. In pratica fra un paio di mesi devo discutere la tesi. Ah. A questo punto la domanda è questa: io in questo modo posso comunque riscattare anni di laurea oppure non rientro nelle previsioni? Stefano, che bella domanda che ci pone. La giriamo subito a Sergio D'Onofrio. Allora, intanto, per qualora il percorso di studi fosse stato regolare, ammettendo che non so, un giovane voglia fare riscatto degli anni di studio, ma non abbia discusso la tesi, e questa domanda se la ponga, non lo so, 27-28 anni, la tesi comunque è un parametro fondamentale per poter avviare la pratica, D'Onofrio? Sì, certamente. Cioè qui appunto, quindi il percorso deve essere completo. Sempre ricordare che il conseguimento del titolo è essenziale per poter ottenere il riscatto. Per quanto riguarda la situazione del nostro ascoltatore, ma certamente lui può chiedere il riscatto nel momento in cui conseguirà il titolo e per quel periodo sempre in cui cade il corso legale. Quindi gli anni fuori corso sono praticamente fuori, quindi diciamo va a coprire quel periodo che appunto non è coperto da attività lavorativa. Quindi nel suo caso sì, il riscatto lo può chiedere, a condizione però che durante il periodo del corso legale di laurea non risulta coperto per attività lavorativa, ma il riscatto si può fare in ogni momento, addirittura dopo la pensione. Addirittura dopo la pensione, a che cosa servirebbe in quel caso? Beh, in questo caso chiaramente per aumentare, soltanto per incrementare l'importo. Sono situazioni un po' marginali, ma si possono dare. Però insomma anche questa è un'informazione che bene che si sappia. Stavo considerando prima le motivazioni per cui l'INPS dovrebbe rifiutare una richiesta di riscatto. Maria Carla, in che caso può verificarsi? Non credo ci sia questa possibilità. Può essere respinta una domanda da parte dell'INPS di riscatto, D'Onofrio? Certamente sì, se non ci sono appunto i requisiti che accennavo prima, cioè il fatto che il periodo non risulta già coperto. Può essere il caso appunto più frequente della persona che in quel periodo ha lavorato, sono molti coloro che si laureano mentre lavorano, ma anche magari il caso, non so, di un periodo che è coperto da servizio militare. Ho capito. Ci possono essere queste situazioni limite, però insomma sono rare. Appunto, la domanda può essere respinta parzialmente, nel senso che l'INPS può dire riscatto sì, ma soltanto per questo periodo che risulta scoperto. Fausto da Milano, benvenuto a Salvadanaio. Non faccio gaffe sull'età, perché sennò qua stamattina è un precipizio continuo. No, la mia età non è un segreto, ho 65 anni, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Fausto. Vengo subito al dunque, io ho due domandine. Volevo fare un regalo a mia figlia riscattando gli anni di università cattolica a Milano. La mia domanda è la seguente però. Allora, primo, mia figlia lavora e vive in Francia e quindi non è sotto chiaramente il mio regime, quindi mi sembra che io non possa riscattare dal punto di vista fiscale, fiscalmente voglio dire, i vantaggi non posso averli. Secondo, l'altra domanda è, neanche mia figlia, mi sembra di capire, essendo sotto regime francese, può avere questo vantaggio, quindi mi sembra sia fiscale, quindi mi sembra che sia una discriminazione. Un po' penalizzante per lei, Fausto. Allora, vediamo un po' se c'è una scappatoia per farle risolvere la sua situazione. Non è carino utilizzare questo termine, però siccome, come dire, l'obiettivo che la anima è così nobile che vorremmo accontentarla. Sergio D'Onofrio, ci può aiutare? Non c'è nessun modo per Fausto per fare questo regalo alla figlia? Indubbiamente siamo in una situazione parecchio atipica. Infatti. Però alcune cose si possono dire. Intanto la prima valutazione da fare da parte dell'interessata è se, diciamo, la sua carriera lavorativa in Francia è temporanea, nel senso che c'è in previsione un ritorno a breve in Italia. Allora, in questo caso può anche attendere a presentare la domanda, cioè non perde nulla. Certo, c'è ancora più. Fausto? No, non abbiamo ancora. Sì, vi sto sentendo. No, è definitiva. Lei è in Francia, vive in Francia, lavora in Francia. Allora, se è definitivo, intanto bisognerebbe accertare, questo così su due piedi non lo possiamo dire al nostro ascoltatore, se nel regime previdenziale francese al quale è assicurata c'è un beneficio assimilabile al nostro riscatto laurea. Se non è così, lei in questo momento risulta inoccupata in Italia, quindi ricade nella situazione, siccome non è iscritta a nessuna cassa italiana, almeno questo sembra di capire da quanto ci dice l'ascoltatore, allora può chiedere il riscatto e l'INPS accoglie la domanda, perché quando andrà a fare un riscontro sui suoi dati potrà verificare che non è assicurata e quindi allora pagherà il riscatto come persona inoccupata. È un po' in questo caso, il padre potrebbe anche beneficiare della detrazione fiscale perché è lui che si accolla l'onere. Quindi però insomma bisognerebbe questi elementi, allora può rientrare nel beneficio e un giorno sfrutterà questo riscatto saldandolo con gli anni di lavoro in Francia. Però insomma, la prima cosa che si può fare, sicuramente come lei suggeriva D'Onofrio, adesso è chiaro che al nostro ascoltatore interessa anche l'incentivo fiscale applicato dal nostro ordinamento, però prima di tutto, se poi volesse proprio fare questi versamenti per la figlia, verificare se effettivamente anche il regime previdenziale francese, anche se sarà evidentemente diverso, lo contempla. Magari anche, forse vuole fare una sorpresa alla figlia, non glielo vuole dire, voleva incaricarsi lui interamente dell'operazione. Comunque magari io invito il nostro ascoltatore a scriverci se vuole avere qualche informazione in più, così anche noi abbiamo modo con ulteriore documentazione di verificare appunto un po' meglio queste condizioni che ci ha raccontato e valutare anche una risposta un po' più precisa, anche se credo che D'Onofrio si sia come sempre espresso in maniera molto, molto precisa. Adriana da Torino, le faccio fare la sua domanda, poi le rispondiamo dopo le anticipazioni del GR Extra Large. Benvenuta. Perfetto. Buongiorno a tutti. Io mi sono laureata più o meno nel 90, ero già dipendente e ho fatto subito la richiesta del riscatto degli anni sì. di laurea. E mi avevano chiesto una ventina di milioni, ahimè mi stavo sposando e non avevo infatti certo. no, economicamente non è propriamente una passeggiata, non lo è adesso, non lo era allora, esatto. adesso un po' meglio però. E volevo sapere se questi conteggi sono tuttora validi, se li devo rifare e se a questo punto mi conviene attendere la pensione tra altri 20 anni. Certo, se deve attualizzare. Beh, sicuramente un conteggio di convenienza economica, Adriana, perché non farlo? Poi da lì a decidere se fare il riscatto è un'altra cosa. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Il riscatto della laurea è il tema che stiamo affrontando questa mattina per capire quando è bene farla, qual è anche l'impegno finanziario che richiede una pratica di questo tipo, a chi ci si rivolge e soprattutto stiamo ovviamente come al solito affrontando anche poi i vostri casi che sono molto particolari, come quello di Antonietta da Torino che ci ha raccontato. Avrei voluto farla quando ho cominciato a lavorare, però contemporaneamente mi stavo sposando, l'impegno finanziario era un po' troppo elevato rispetto alle altre esigenze che avevo in quel momento. In quel momento avevo calcolato che l'impegno fosse di circa 20 milioni, stiamo parlando dell'inizio degli anni 90. E Antonietta ci chiede, insomma, sarà lo stesso sforzo finanziario che dovrei sostenere se volessi fare un'operazione di questo tipo in questo momento? Sergio D'Onofrio, secondo lei Antonietta deve rifare tutti i calcoli? Sì, e deve soprattutto presentare una nuova domanda, perché quella presentata all'epoca non è più buona, nel senso che lei, non avendo pagato, quindi deve fare una nuova domanda e purtroppo dovrà pagare anche qualcosa in più dell'equivalente dei 20 milioni dell'epoca, perché per i corsi di laurea che si collocano prima del 96 ci sono dei coefficienti dei parametri che fanno salire il costo, anche perché si tiene conto dell'età della persona, anche del sesso, nel senso che le donne purtroppo va detto sono svantaggiate perché vanno in pensione 5 anni prima e quindi diciamo c'è un parametro più alto. Lo sente il grillo parlante che sta parlando sotto D'Onofrio? No, dice Maria Carla De Cesari, è per fortuna che le donne possono ancora andare in pensione un po' prima e vivono anche di più, diceva, ma questo è ininfluente ai fini del tema che stiamo affrontando quest'oggi. Perché quest'anno cosa. Potrebbero arrivare delle belle novità, infatti. Io e te, Maria Carla, che siamo ancora molto giovani, non andremo mai in pensione, no, te lo dico già fin da ora, fra 30 anni staremo ancora qua a parlare di questi argomenti. D'Onofrio, la lascio concludere. È meglio essere giovani che pensionati. Magari anche con D'Onofrio, perché no, che arricchisce certo. sicuramente le nostre. Quindi, tra l'altro, per l'ascoltatrice di Torino, che era Adriana, Antonietta, ecco, mi scuso. Tornando al quesito, quindi la signora deve presentare una nuova domanda. Sì. L'INPS farà un calcolo di quello che sarà il costo. A questo punto, come dicevi tu, questo però non è poi un qualcosa dal quale non si può tornare indietro. Se l'operazione nel suo insieme, per quello che costa, per quelli che sono i benefici sulla pensione, non vale la pena, la signora può tranquillamente rinunciare. Infatti, tra l'altro, stavo anche leggendo che una volta che si avvia l'istruttoria e la pratica e l'ente di previdenza ha dato comunicazione della sua accettazione e quindi ci ha già fissato anche, se facciamo il versamento rateale, a quanto ammontano le nostre rate mensili, se le prime rate non vengono pagate si deve ricominciare tutto da zero, D'Onofrio, vero? Il mancato pagamento di 2 rate consecutive danno per chiusa la pratica, sì. Sì, nel senso che praticamente si deve fare una nuova domanda, ma quello che è stato versato prima non va perso, nel senso che poi sarà, diciamo, considerato, accreditato sulla posizione assicurativa per il suo valore. Si totalizzano le rate praticamente. Ecco, però se questo ha comportato la copertura solo di un anno del corso di laurea, per gli altri 3 anni bisogna presentare una nuova domanda e versare altri soldi. Allora, ci sono tanti sms anche che vorrei leggere, adesso sento anche i nostri ascoltatori, però Maurizio ci scrive: mia moglie lavora occasionalmente con contratti a progetto, le conviene riscattare la laurea o rischia di perdere i soldi se non raggiunge il minimo? Chi mi vuole rispondere? Sergio D'Onofrio. Sì, posso rispondere io tranquillamente, nel senso che Sì, la convenienza c'è anche in questo caso, anche perché poi insomma il lavoro occasionale c'è da augurarsi che non sarà per molto tempo. Quindi essendo iscritto alla gestione separata, cioè a quella dei parasubordinati, allora può, diciamo, già chiedere il riscatto e pagherà un costo vicino a quello che pagano gli inoccupati, perché c'è un parametro che vicino a quello che degli inoccupati, quindi diciamo 4.700 euro l'anno. Perfetto. A maggior ragione per chi, diciamo, fa lavori saltuari, questo può essere un buon investimento, perché si creano le condizioni, come si diceva prima, per crearsi, diciamo, una base contributiva su cui poi innestare anche i versamenti durante la vita lavorativa. Allora, tre ascoltatrici in attesa, incredibile oggi, tante donne interessate a questa materia, ci fa molto piacere, allora le continuiamo ad accontentare. Maria Pia da Roma stava aspettando da un po', benvenuta. Sì. Buongiorno e grazie dell'opportunità che mi offrite. Grazie a lei, Maria Pia. Allora, guardi, io ho mia figlia che è laureata da un anno, sì, e percepisce semplicemente un rimborso spese in quanto è praticante avvocato, e ho inoltrato la domanda all'INPS per il riscatto della laurea di 5 anni. Sì. Ora, io mi sono un po' spaventata dalle cifre che avete detto, perché pensavo qualcosa di meno come rata. Ho fatto un conteggio, quindi... Quanto le costa, detto... Maria Pia, l'operazione? Prego, non sento. No, quanto le costa l'operazione? Ecco, così ci facciamo un po' di affari. Il conteggio dall'INPS non l'ho ottenuto. Ho appreso da voi che si aggirerebbe la cifra sui 4.700, se ho ben capito, all'anno. Sì. Ora, occhio e croce, insomma, sui 200 euro al mese minimo. Sì. Ecco, allora la mia domanda è questa. Quando mi arriva il conteggio dall'INPS, io posso decidere di riscattare 3 anni, per esempio, per adesso, e successivamente tra qualche anno, o se ho diciamo una cifra disponibile, riscattare anche diciamo in toto gli altri 2 anni? L'abbiamo anche detto, rimanga pure in linea Maria Pia, all'inizio della trasmissione poco fa, facendo un caso inverso al suo, nel senso che avevamo una persona che dopo tanti anni aveva deciso di riprendersi, di riprendere gli studi, di discutere la tesi, e mancandogli pochissimi anni alla pensione, lì gli abbiamo proprio suggerito di fare un riscatto parziale, perché non gli conveniva anche dal punto di vista finanziario riscattare tutto il percorso di laurea. Qui abbiamo un caso contrario, è proprio una questione di natura economica, quindi molto pratica. D'Onofrio, cosa possiamo dire a Maria Pia? Sì, confermo in pieno quello che è stato detto finora, cioè che il riscatto può essere anche parziale, e poi per quello che resta si fa una nuova domanda, se si ha interesse. E infatti si può partire, Maria Pia, comunque anche in questo caso... bene, insomma, magari cominciare a pensare già al futuro previdenziale di questa ragazza giovanissima, chissà quando andrà in pensione, probabilmente. Certo, poi se si iscriverà all'albo degli avvocati, naturalmente dovrà, e se farà l'attività forense, dovrà poi, come dire, perfezionare e concludere il proprio iter di riscatto con la cassa forense. Certo. Quindi ecco, anche questa è un'indicazione interessante. Per cui Maria Pia, quindi adesso io non ho capito tra l'altro se l'ascoltatrice avesse già iniziato a fare. Maria Pia, c'è ancora con noi? Dice che no. Lei ha già fatto la sua domanda all'INPS, e quindi a questo ho punto che cosa può fare? In attesa del conteggio. Ah, ecco. E allora, se la rata per me è accettabile, io riscatto i 5 anni, perché chiaramente è a mio carico. E qualora fosse elevata, cioè io ho pensato per esempio di riscattare parzialmente, ma da quanto apprendo dovrò rifare domanda per gli anni successivi. Aspetti quindi un po', Maria Pia. È diverso. Beh, sì, allora, D'Onofrio, sì. Per chiudere su questo argomento, la signora può precisare se al momento della domanda la figlia era già iscritta alla cassa avvocati? Non credo, credo che sia una praticante ancora. Maria Pia. Stati abilitati. Sì, ma è scritta alla cassa forense? No. Non ancora. Ah, va bene. Allora? Nessun problema. Che cosa cambia? Perché glielo ha chiesto? Beh, perché praticamente se fosse stata già iscritta, il riscatto non lo doveva, la domanda di riscatto non andava presentata all'INPS, ma alla cassa forense. Ah, ecco, certo, ovviamente. Quindi, insomma, Maria Pia ha già inoltrato la domanda, aspetta di vedere, come dire, chiamiamolo così, il preventivo dell'INPS su quello che potrebbe essere l'onere mensile di questa operazione, oltre che ovviamente l'onere complessivo. Se non è di gradimento economico, di Maria Pia, lasciatemi passare questo termine, deve rifare una nuova domanda e chiedere all'INPS quanto costerebbe il riscatto della laurea per 2 anni di studio, D'Onofrio. Deve rifare sì, tutto. Sì, certamente. Cioè, se appunto non, al momento non ha interesse o comunque ritiene, diciamo, non conveniente riscattare tutto, perché chiaramente la cifra è comunque sì, sì, certo, di un certo peso, allora può anche, diciamo, decidere di pagare una parte e poi riservarsi eventualmente di fare una domanda in futuro. Per fortuna, sì, insomma, che è un sistema molto elastico, Maria Carla. Certo, diciamo che, come dire, forse sulla bilancia bisogna anche mettere, come dire, le prospettive lavorative della figlia, della signora, cioè se questa persona farà l'avvocato, presumibilmente avrà una carriera previdenziale assicurata presso la cassa forense, quindi, come dire, dovrà poi in qualche modo considerare il fatto dei contributi che eventualmente verserà all'INPS o che potrebbe versare all'INPS come riscatto di laurea e poi eventualmente la totalizzazione con i contributi alla cassa forense. Ecco, c'è anche questo, come dire, questo ulteriore elemento da considerare. Non so se il dottor D'Onofrio è d'accordo. E ci aggiungo anche io un'altra considerazione. Ovviamente, certo, perché è chiaro che, insomma, qui ci troviamo in una situazione in cui il riscatto sarà soltanto una parte della vita lavorativa, quindi deve anche, diciamo, ecco, valutarne la convenienza nel lungo periodo. Certo, proprio come dire, in relazione agli sbocchi lavorativi, a quella che sarà la carriera. E infatti, proprio in merito a questo, ci aggiungo io un'altra considerazione. I fondi che vengono versati attraverso il meccanismo del riscatto della laurea finiscono all'INPS, che poi a sua volta il montante che si crea lo gira all'eventuale futura cassa previdenziale. In questo caso, per esempio, se la signora Maria Pia fa il riscatto della laurea, quindi ovviamente l'operazione in questo momento è fatta con l'INPS, e la figlia intraprende il percorso di avvocato, quindi poi successivamente questo importo viene girato alla cassa forense oppure rimane all'INPS e si fa una totalizzazione futura, D'Onofrio? Si possono dare entrambe le situazioni, perché appunto la legge in questo caso consente in ogni momento all'interessato di portarsi senza alcuna spesa a suo carico questi contributi alla cassa forense. Benissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Questa è incredibile. Giuseppe da Verona ci scrive: ho 2 lauree, posso riscattare 8 anni, D'Onofrio? Certamente sì. Chiaramente il costo raddoppia. Certo, però la facoltà è data dall'ordinamento. La facoltà è prevista dalla legge, sì, non ci sono problemi di sorta. Allora, tutti i segreti, i misteri, la disciplina del riscatto della laurea questa mattina a Salvadanaio, 800 24 00 24, per le domande dei vostri ascoltatori, con ovviamente una contestazione che arriva da un ascoltatore per le modalità con cui facciamo le nostre equivalenze, i nostri conti stamattina, le nostre divisioni. 4.700 diviso 12 mesi sono circa 400 euro al mese, non 200, ha ragione. Sì, però i 4.700 corrispondono all'importo per l'anno da riscattare. In realtà, se noi moltiplichiamo i 4.700 per coefficiente... la durata del corso di laurea, mettiamo 4 anni, questa somma, che credo sia intorno ai 18.000 euro, 18.800, una cosa del genere, se non ho fatto male i conti, potrebbe essere spalmata in 10 anni, 120 rate, quindi a quel punto diventerebbero 200, come aveva indicato Maria Pia da Roma. Ecco qua, quindi mi sembra, lasciamo stare la matematica per un attimo e andiamo ai però temi. Ecco, i 4.700 è il costo. Non è 4.700 da fare diviso 12. È il costo dell'anno che uno riscatta. Perfetto. Gabriella da Bergamo, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno Gabriele. Grazie di avermi chiamata. Sì. Mio figlio si è laureato nel 2004. Sì. Ha lavorato 3 anni e poi, in aspettativa di lavoro, si è iscritto a un master che termina a maggio di quest'anno. Sì. Domande: può riscattare anche 2 anni di master? Mm-hmm. Poi il genitore può riscattare per lui questi 7 anni ed eventualmente portare a proprio beneficio fiscale il riscatto, oppure se il figlio lavora può farlo solo il figlio? Lei dice 7 anni, Gabriella, perché ci vuole mettere dentro anche gli anni del corso di laurea. Gli anni di master. Perché allora aspetti, Gabriella, aspetti. 5 più 2 che cosa vuol dire? La laurea più il master. Gabriella, sì, lei mi ha detto 2 laurea più master. Ecco, appunto. Perfetto, ha terminato? No, la terza domanda è questa. Presentando domanda nel 2009, il conteggio della rata corrisponderà a quale periodo lavorativo del figlio? Precedente di 3 anni, quindi prima del master, oppure il lavoro che farà dopo il master? Allora, Gabriella, una bella situazione anche la sua. Cominciamo con la prima parte. Intanto il master, Maria Carla, è escluso dal riscatto. Escluso perché appunto possiamo riscattare gli anni di laurea e il master sono esclusi. Sono esclusi. La seconda domanda... Sì, era se poteva fare riscatto dei 7 anni, gli diciamo quindi, sì, parziale, può farla solo per i 5. Per i 5. Ribadiamo i benefici fiscali che possono avere i genitori, sì, se hai voglia. Ecco, ma il problema è che il figlio della signora è stato occupato, quindi come dire il riscatto sarebbe a suo carico, mi sembra sia preclusa la possibilità del genitore di ottenere il vantaggio della detrazione. Mi sembra di poter rispondere per quanto riguarda l'ultima domanda, poi eventualmente mi integrerà Donofrio, che appunto se dopo il master questa persona ancora non lavorerà e farà la domanda subito dopo il master, la base di calcolo sono gli stipendi precedenti. Ecco, magari allora con Donofrio, proprio prendendo spunto quest'ultima parte, rifacciamo il punto della situazione su quelle che sono le basi di calcolo, no, per l'onere finanziario di tutta l'operazione. Donofrio. Sì, intanto ecco i 200 euro di cui parlava un ascoltatore sono giusti in un certo senso, perché bisogna in sostanza prendere il costo complessivo del riscatto e dividerlo per 120. Che è la possibilità massima della rateizzazione. Sì. Diciamo nell'esempio che faceva Maria Carla, siamo intorno appunto ai 200 euro e anche meno. Tra l'altro, ecco, i 120 rate possibili possono essere anche inferiori? Si può anche stabilire un periodo di rateizzazione inferiore? Sì, certamente, questa possibilità è prevista e tra l'altro diventa anche un po' obbligata per chi è vicino alla pensione. Certo. Perché se una persona mancano magari 4 o 5 anni, non si può portare la rateizzazione oltre questo periodo. Il momento della pensione, quindi per lui diciamo è gioco forza è versare tutto in un periodo più breve, ma se conviene si può versare, non so chi può avere questo tipo di interesse, si può versare anche in un'unica soluzione. Ecco, il discorso del costo in parte è stato detto, cioè si fa praticamente la valutazione al momento della domanda. Quindi se al momento della domanda una persona non lavora, però prima ha lavorato, si va a ritroso a vedere qual è stato l'ultimo anno di retribuzione sul quale poi verrà calcolato il riscatto. Per cui tutto sommato la nostra ascoltatrice, che se non ricordo male era di Torino, di Gabriella di Torino, come conviene muoversi avendo escluso la possibilità di riscattare il periodo del master, comunque fare un calcolo di convenienza che però a questo punto sarà... a carico del figlio, perché non c'è il beneficio fiscale per il genitore, cioè poi se vogliono aiutarlo economicamente è un altro discorso. Certo. Però ecco, formalmente non è quel nucleo familiare che si può incaricare dell'operazione. Certo, perché quello tra l'altro il giovane, se continua a lavorare, può avere interesse anche da un punto di vista fiscale ad assumere lui il costo del riscatto, perché praticamente può usufruire di un beneficio maggiore dato dalla deduzione dal reddito imponibile, mentre i genitori usufruiscono della detrazione che è in una misura secca del 19%. Alessandro da Verona torna su un punto che abbiamo così toccato solamente di traverso poco fa. Benvenuto. Deborah, buongiorno. Buongiorno. Avrei due domande da fare. La prima è questa. Io ho già riscattato la laurea, nel senso che sto pagando le rate per 10 anni, e vorrei sapere questi soldi dove vanno a finire. Vanno, io ho un fondo chiuso di categoria per la banca. Vanno all'INPS questi soldi che noi versiamo ratealmente o possono anche andare nel fondo pensione e di conseguenza dopo 8 anni, come accade nei fondi pensione, potrò andarmi a prendere una parte per motivi ovviamente di acquisto casa o altri motivi di questa somma che vado a depositare. Alessandro, grazie per la domanda molto chiara. Allora, intanto questi soldi versati, visto che è un rapporto che noi attiviamo con l'INPS, vanno tutti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Sergio D'Onofrio. Sì, lo confermo pienamente. Il fondo integrativo è, in questo caso non è interessato in alcun modo, e quindi anche quella richiesta, diciamo, di anticipazione può essere fatta soltanto al fondo integrativo. Ecco, questa è un'altra, però si può chiedere un rimborso parziale della somma versata a titolo di riscatto della laurea all'INPS? No, questo non è nel modo più assoluto, cioè questo è stato anche chiarito recentemente dall'INPS con una sua nota, questo non è possibile. No, perché lo leggevo nello speciale di lunedì scorso, infatti non è ammesso il rimborso. Sì, non è ammesso. Né parziale né totale di quanto versato. Esatto. E quindi questo è quanto abbiamo dovuto dire al nostro ascoltatore. Filippo da Torino, modalità pratiche di versamento dei bollettini, delle rate, sì? Pronto? Filippo è con noi. Pronto, buongiorno a tutti. Volevo sapere se ci sono altri modi di pagamento delle rate, oltre i bollettini alla postali. Perché le stanno proprio antipatici? No, deve pagare credo i bollettini inviati dall'INPS. Oppure... Sì, perché ogni mese uno si deve ricordare. Tra l'altro, ma magari qualche banca permette anche di fare un versamento online. D'Onofrio, nello speciale di lunedì vi scrivete anche collegandosi al sito dell'ente di previdenza. Sì, appunto è stato ricordato questo fatto, diciamo, abbastanza importante dal punto di vista, ecco, proprio delle agevolazioni pratiche che interessano l'ascoltatore, cioè che si può pagare sia col bollettino sia anche online le varie forme di pagamento che sono usate, la carta prepagata di PostePay, le carte di credito dei principali circuiti e così via, o anche appoggiare tutto i bollettini sulla banca, che poi, diciamo, così si fa carico con la RID, insomma, come si pagano le bollette si può fare anche il versamento automatico delle rate per il riscatto. Grazie molte per essere stati con noi, a Sergio D'Onofrio e Maria Carla De Cesari. E il tempo è volato, anche questa mattina avremmo avuto tante altre domande di tanti ascoltatori, ci fa piacere, allora magari in più breve tempo possibile torneremo su questo argomento. Noi ci risentiamo lunedì alle 8:15 a Soldi e Dintorni e poi alle 12 a Salvadanaio. Da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.